Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastore del campo. La mia mamma, che farà se io non moro? Se io non moro? Thank you.

sfrappata, no, faccia di cinese, bene si vede, dopo di te, ragazzo, e questo che la vola, mi compagnisco. Se vieni ubriachi, eccomi spegne. Vieni, ti urla, urla, ti urla, urla, urla.

quella Miguel Torrena è una canaglia, aspi non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine, papà, che le siamo lì? Scusa, senti, scusa, la vittima. E poi, senti, guarda, non sapevo se mi sono uccido. Perché con suo doppio paese, ma, povera Gitti! Stanno bene, purtroppo ciò, ci sono Gigi, non Gigi in tristi. Ciò, Gigi, brutte nuove, su coraggio! E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, che sono questi vostri? C'è quello che gli ho detto, ma la polca si beve il whisky schietto. Ben venga, gli aggiusteremo i ricci. Cammino. fascino dell'ora. E questo il suono che non m'ha ingannato, Chance! Chance!

Sarà questo fischio. In quel barile, Johnson, c'è un tesoro. Ci ripongono loro ragazzi. E mi lasciano così. Ogni notte io rimango qui a vegliarlo. A tutta la mamma sono testo perché mi spiego il tuo. Saluto nella vostra